sono orgogliosa, orgogliosa della mia squadra, orgogliosa delle piccole che per fortuna hanno mantenuto la testa, forse in alcuni momenti sono state addirittura più lucide di me. E quindi da me, che credo di avergli insegnato qualcosa, è stato bello vedere una cosa del genere. Si sono visti i tuoi soliti assist, i tuoi soliti gol, ma anche delle belle giocate difensive in alcuni momenti. Segno che avevi capito che in quel momento serviva anche questo tipo di segnale alla squadra. Ma sai, quando sei più, diciamo, più grande, forse ti devi concentrare anche sul dirigere e sul mettere tranquillità e serenità. E quindi forse magari io prima, quello che non facevo prima, perché ero, diciamo, più incosciente, più piccola, c'era qualcuno che lo faceva per me, forse ora è arrivato il momento che lo faccio io. C'è la Grecia, che vuol dire una riedizione anche della finale di Atene, no? Loro non sono le stesse come noi, non siamo assolutamente le stesse. Forse loro sono un po' di più di quelle che eravamo noi. Però comunque speriamo che si ripeta lo stesso risultato anche con il tifo al contrario.